Rock. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Crema è sotto shock. Una donna di 38 anni, ospite di una struttura per pazienti psichiatrici, si è data fuoco ed è morta. È successo qui, su questo campo, intorno all'una, nell'indifferenza della gente. I passanti hanno ripreso l'accaduto anziché intervenire e portare soccorso. Solo un uomo ha cercato di salvarla. Meno male che si è fermato uno con la macchina e gli ha messo l'asciugamano sopra la testa per cercare di... Dopo uno ha visto, così è andato a prendere un istintore, cercato, ma non c'è stato niente da fare. E c'era gente che riprendeva col telefonino. Sconvolto dall'indifferenza della gente, il soccorritore ha scritto al sindaco di Crema, che ha postato su Facebook un messaggio in cui denuncia, incredula, l'accaduto. Per me dovrebbero dare almeno una sanzione a queste persone che hanno fatto questi video. Capisco che uno possa non avere il sangue freddo di intervenire al limite, però filmare mi sembra una cosa un po' eccessiva, ecco. Ma robe da matti. E adesso con quei telefonini lì vogliono riprendere tutto. E se fossi stata io avrei chiamato subito 112 soccorsi, come era giusto fare secondo me, non stare lì a filmare gli spettacoli. Che spettacolo è? Tutti bravi a criticare gli atteggiamenti altrui, quando oramai quello di rendere perlomeno persistenti, se non immortali, i momenti epici che ci offre la vita, fotografandoli e condividendoli, è un atteggiamento che abbiamo tutti. Queste sono le punte paradossali. A Crema, il 1° agosto, una donna che si era allontanata da una struttura per persone con fragilità psichica che avrebbe dovuto comunque provvedere alla sua sicurezza, si è avventurata in un prato accanto a un ristorante, ha preso una bottiglia di benzina che ha preso un distributore automatico, si è cosparsa benzina, si è data fuoco. Una torcia umana che gli avventori del ristorante antistante a qualche metro da questo episodio hanno pensato bene di interrompere il loro pranzo, pare fosse una domenica, domenicale, o sabato, comunque era un giorno di festa, e hanno cominciato con i telefonini a riprendere, a fare foto di questa donna che ardeva, finché si è fermato un signore, una persona anche di una certa età, e ha preso una coperta, ha provato a spegnerla, poi si è fatto dare un estintore, è comunque intervenuto praticamente mentre gli altri continuavano alle sue spalle a fare foto, a fare immagini, forse anche a condividere, anche se non mi risulta ci siano tracce nei social di questo episodio, anche perché c'è stata un'immediata reazione, tutti ne hanno scritto, io stesso ho dovuto fare un editoriale dicendo che è un atteggiamento diffuso, un atteggiamento che io notai 20 anni fa, quando a Mont Saint-Michel ci fu un episodio simile, una donna affogò nel tratto di mare che appare e scompare a seconda della marea, e allora non c'erano i telefonini, ma con le prime macchine digitali tutti sono indaffarati a fotografare l'agonia di questa donna invece che chiamare i soccorsi. Se ne è molto parlato, se ne è parlato per una settimana circa, sono prese le distanze, si è parlato di sanzioni, poi la cosa è finita nel dimenticatoio. Poi accade qualcos'altro. Ieri Euroma 2, uno di quei mega centri commerciali nella periferia della capitale, un signore di 73 anni, mentre faceva la spesa, è andato per terra per un malore, si è sentito male. Attorno si è creato un capannello di persone che sono state allontanate dai responsabili per permettere a degli operatori di soccorrerlo. Nonostante questo la gente si è accalcata, ma si è accalcata soltanto per la curiosità di poter fare una foto, di scattare un selfie, di fare un filmato, tanto che alla fine il direttore ha disposto la chiusura di tutto il supermercato e ha fatto uscire tutti i clienti perché intralciavano i soccorsi di quest'uomo che, tra parentesi, è pure morto. Quindi l'agonia di una persona, o forse proprio un cadavere, è diventato il puntum dell'attenzione, della volontà di trasmettere un momento epico da un'infinità di persone che facevano la spesa al supermercato. Gente normale, gente come me, come voi che ascoltate, non dei pericolosi criminali, non degli spietati giovinastri, non dei compulsivi delle tecnologie digitali, gente normale. Perché gente normale di fronte a un episodio di sofferenza di altri esseri umani ha oggi il primo istinto di immortalare, cioè di rendere immortale attraverso l'immagine quell'episodio, piuttosto che salvare la vita del mortale che si trova davanti? Beh, questa è una bella domanda, una domanda che mi vorrei porre con oggi, con voi, chiamando appunto all'800240024, avete possibilità di dire la vostra. Quali sono stati i momenti della vostra vita che avete fotografato, filmato, immortalato, condiviso, e poi ve ne siete pentiti, avete pensato che forse non valeva la pena o forse bisognava fare una riflessione su questo. La definizione e la conclusione più semplice che si può fare di fronte a questi episodi è: questi giovani con i loro telefonini ormai sono impazziti, una volta sì che noi invece ci occupavamo degli altri, sono diventati dei malati, dei maniaci, è la tecnologia, è il progresso, bisognerebbe ritornare a tutto come era una volta, ricordate il punto di ripristino, come dicevo io. Beh, invece una persona ha fatto una riflessione, condivido molto, molto lucida su questo fenomeno. Non è roba da giovinastri, in un centro commerciale a fare la spesa ci sono umarell, ci sono signore attempate, ci sono padri di famiglia e madri di famiglia, quindi il fenomeno riguarda l'intera umanità, non una fetta è criticabile di umanità. Costei è Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ma prima di tutto una nostra amica. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, hai avuto una bella faccia tosta, hai spostato il bersaglio dai soliti giovinastri depravati, schiavi delle tecnologie, multitask e quindi colpevoli, a una schiera di umarelle di signori uguali a quelle che mi stanno ascoltando in questo momento mentre tagliano la cipolla e la buttano nel soffritto. Sì, perché poi fondamentalmente in genere dell'uso distorto dei mezzi tecnologici si dà la colpa solo ai ragazzi, sono loro che si fanno i selfie, sono loro che fanno i selfie a rischio e che si mettono in queste condizioni. E invece nella maggior parte dei casi di queste situazioni, come nel caso purtroppo della signora che si è data fuoco anche a Crema, non c'erano i giovani, non c'erano gli adolescenti, non c'erano coloro che vengono sempre accusati. Stiamo parlando di padri di famiglia, di madri di famiglia, stiamo parlando di adulti che dovrebbero avere una capacità di discernimento, che dovrebbero avere un pensiero critico ben strutturato e ben sviluppato, tale da comprendere quale sia il limite. A questo punto bisogna fare una riflessione, penso che sia... Maura Manca si occupa soprattutto di giovani, di criticità del mondo giovanile, ma spesso sente anche i genitori di questi giovani. E cerchiamo di capire, senza stracciarci le vesti, ma senza appoggiare comunque la responsabilità sempre agli altri. Viviamo in un'epoca in cui tutti abbiamo una nostra appendice individuale con cui possiamo riprendere la realtà, leggere la realtà, in qualche maniera trasmettere agli altri quella che è la nostra esperienza forte di quel momento. E nessuno di noi ormai sa resistere alla tentazione, anzi lo trova eticamente giusto, di poter in qualche maniera trasferire agli altri questa esperienza. Questo trasferito su alcune situazioni drammatiche come quelle di cui abbiamo parlato, ci sembra fuori dalla concezione media che abbiamo dell'umanità. Ci sentiamo disumani. Ecco, ci stiamo disumanizzando in questa direzione o fa parte comunque dell'accettare una nostra realtà digitale in cui di fronte all'episodio forte, se esso tragedia, se esso pericolo, la nostra prima necessità è condividerlo. 800240024, Davide, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, volevo fare un attimo un parallelo. Io da tempo, a prescindere da questi fatti, che mi sembra di notare che l'essere umano stia dimostrando sempre di più l'istinto dell'attrazione verso il sangue, come quando si andava al Colosseo per vedere la lotta fra l'uomo e la bestia, la lotta fra l'uomo e l'uomo, e la gente non aspettava altro che ci fosse la lotta all'interno dell'arena. E tutto questo lo vedo un po' sotto lo stesso occhio, cioè questa voglia veramente istintiva, questa necessità di vedere il macabro e di disumanizzarlo, come diceva lei. Casomai andiamo a umanizzare gli animali, a umanizzare qualsiasi bestia, ma disumanizziamo l'essere umano, è una cosa secondo me agghiacciante. Però ma secondo lei è una reale deriva verso la disumanità, come le vestali del punto di ripristino dicono, o bisogna fare i conti anche con questa nostra realtà, che ormai avendo una macchina a disposizione di riprendere, continuiamo a riprendere. Questo è un fatto. Pasquale, vediamo cosa pensa Pasquale. Gianluca, buongiorno. Sì. Mi ci sta un attimo. Ecco, pronto, ci sei? Ci sono? Sì, sì, certo, sì, ci sei. No. Allora, contesto una per tutte le volte, in cui tu, lei... È uguale, potrebbe quello che vuoi. Ah, ok, allora, tu sei simpaticissimo, ti ritengo veramente... Sì, però va al punto, sì, va al punto però, no, dai. Ma c'entra il fatto che tu sia strepitoso, perché sì, poi sembri vivere immerso nei social, nella rete, e pensi che tutto sia questo. Non è vero che tutti fanno sta roba qua, scordatelo, c'è una percentuale di imbecilli che fa sta roba qua, appunto. Ho capito, questa è la presa di distanza rispetto agli imbecilli e le persone sane. Però voglio farti riflettere, all'interno di un supermercato, centro commerciale, di Roma, c'è un campione significativo dell'umanità, non è una fetta ribelle o sprocedata, vuol dire che ci siamo anche noi in quella folla, quindi qualcosa appartiene anche a noi. Poi se vuoi tu prendi pure le distanze, ma io dico che è un po' difficile prendere le distanze da questo. Sentiamo. Posso? Giuseppe. Sì, Giuseppe. Ciao, Giuseppe. Buongiorno. Ciao. Ti ascolto. Allora, ascolta, prima di tutto volevo segnalare anche una situazione ancora peggiore che è avvenuta in Brasile. Un uomo è morto facendo la spesa in un supermercato e il titolare dell'esercizio non ha avuto nemmeno quella umanità che ha avuto quello in Italia, ma ha praticamente coperto il cadavere con degli ombrelloni ed ha continuato a vendere la mercanzia con la gente che praticamente faceva selfie anche agli ombrelloni. Quindi c'è stata anche una didascalia molto macabra in un giornale, cosa di giorni fa. Ma questo per dire cosa? Che secondo me questo mondo ipertecnologico gestito da pochissimi giganti che stanno facendo soldi a palate. Sì, vabbè, dai, no, taglia, no, guarda, no, non è che difendi i giganti, mi stai portando fuori argomento, non c'entra la mazza quello che stai dicendo. Scusami, c'entra questi giganti, ci siamo tutti dentro, ne usufruiamo tutti ogni istante nella nostra vita. Poi quello è un altro discorso, ti posso anche accettare, sono in pochi, non pagano le tasse, sono giganti, ma ci siamo tutti dentro, io non vorrei prendere distanze. Mauro Manca, sei d'accordo sul fatto che prendere le distanze e indicare gli altri non è l'atteggiamento giusto per comprendere questa fase della contemporaneità? Assolutamente no, perché se no stiamo continuando a fare il gioco di tutti quelli che dicono che è sempre colpa dell'altro, perché poi fondamentalmente quello che continuava a scrivere nello stesso post era: io stessa sono una persona che utilizzo costantemente la tecnologia, ma davanti a un evento del genere io mi fermo. Quindi significa che il problema è inutile spostarlo su colpa degli altri o su colpa della tecnologia, perché è colpa di noi stessi che non facciamo una valutazione critica, ma è più facile parlare e criticare quello che è il comportamento dell'altro. Siamo vittime di noi stessi, di quell'automatismo che abbiamo creato attraverso i social, dove automaticamente, a volte anche in maniera compulsiva, dobbiamo riprendere tutto per dire io c'ero, oppure per dire guarda cosa ho visto. Questo è il discorso fondamentalmente, che siamo vittime di un automatismo, perché la curiosità è umana. È ovvio che se vediamo un evento straordinario automaticamente vogliamo capire cosa sia successo. Questa è la natura dell'essere umano e non stiamo sindacando su questo, perché tutti quanti noi ci saremmo fermati un attimo a guardare, ma l'istinto umano è il problema delle file sull'autostrada quando c'è un incidente, che si crea un intoppo perché tutti vogliono comunque rallentare per capire che è successo, invece che defluire, che è la maniera più intelligente per permettere ai soccorsi di agire. Ecco, a questo però ci potrà essere pure una soluzione, una mini soluzione: educazione alla cultura digitale, educazione all'uso delle macchine di riproduzione individuali, creare una coscienza generale, come ha fatto questa mattina Mauro Manca in un post su Facebook, e l'ho ripresa perché mi sembrava giusto, riflettere sul fatto che ci siamo dentro tutti fino al collo, è qualcosa su cui possiamo lavorare, piuttosto che dire colpa dei grandi magnati dell'industria digitale, colpa degli sconsiderati, colpa di poveri imbecilli. La maggior parte della gente non ragiona così. Io sono convinto, Mauro, che la maggior parte della gente sia dentro questo, è un istinto che provo anch'io, lo ammetto, lo capisco, faccio un lavoro di forzatura sul mio istinto, quando vedo qualcosa di drammatico mi viene voglia di prenderlo, riprenderlo. Poi io faccio il giornalista, c'è anche un altro discorso che affronteremo però fra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Stiamo semplicemente riflettendo su un dato di fatto. È irresistibile per la media umanità, anche di fronte a momenti di sofferenza di altri esseri umani o circostanze tragiche, anteporre la smania di condividere quel momento attraverso il proprio apparato individuale di comunicazione, che è lo smartphone, piuttosto che magari intervenire di persona, fare qualcosa o anche semplicemente sgomberare l'area per far passare i soccorsi. Questo è accaduto in maniera clamorosa a Crema il 1 agosto, una donna si è data a fuoco e la gente che guardava dal ristorante si è messa a fare i video, e ieri in un mega centro commerciale di Roma un uomo di 72 anni è stramazzato a terra. Il proprietario del centro commerciale è stato costretto a sgomberare il supermercato perché la folla delle persone col carrello che comprava i pannoloni e pannolini, cibo, scatolette, frutta e vettovaglie varie, si è messa a fare le foto col telefonino e impediva ai soccorsi di intervenire, e l'uomo infatti poi è morto. Ne sto parlando con Maura Manca, che è una psicologa, ha avuto il coraggio questa mattina di scrivere nel suo profilo Facebook. Guardate, non ve la prendete sempre con i soliti giovinastri digital compulsivi. In un centro commerciale alle periferie di Roma c'è un campione medio dell'umanità, quindi riflettiamo tutti su questo. Ti avevo domandato, Maura, prima quale potrebbe essere una soluzione, se no continuiamo anche noi a stracciarci le vesti e dire siamo tutti rincretiniti, ma se ne deve uscire, perché se ne uscirà comunque da questa maniera di certificare una nostra falla, un nostro bug su cui dobbiamo lavorare nella nostra evoluzione digitale. Quello che io sto notando in questi ultimi anni è che prima si agisce e poi si pensa, quindi a tutti i livelli, ribadisco, non solo nell'adolescenza e nell'infanzia, anche noi adulti, è un insieme quello che si è andato a creare, dove stiamo applicando degli automatismi, dei nuovi schemi che noi abbiamo appreso. Dobbiamo ragionare tutti sulle nostre azioni, perché adesso automaticamente andremo a fare, come abbiamo visto, istintivamente viene da prendere un telefono, da filmare, da fotografare, e tutta una serie di azioni, ma siamo noi che lo governiamo, non è lui che governa noi. Questo è quello che secondo me a volte ci dimentichiamo, e perdiamo in questo modo il senso dell'altro, perché in quel momento io comprendo che volevo magari dire a qualcuno che c'ero, cos'era successo, perché automaticamente oggi si parla attraverso video e immagini, perché abbiamo creato questo, quindi comprendo l'automatismo, ma quello che manca è il limite dove c'è il senso dell'altro. La curiosità non può calpestare i diritti umani, perché in quel momento io non posso non pensare che stanno arrivando i soccorsi e che quel signore è una famiglia e che quel signore ha bisogno di una morte degna, non di essere su tutti i telefoni ed ognuno commenta quello che ha visto. Questo è quello che a me spaventa. Mi suggerisce un ascoltatore dal nostro gruppo Telegram, immaginiamoci di trovarsi in un momento di estrema difficoltà, ci manca il respiro, cadiamo, ci batte forte il cuore, rischiamo, sappiamo che probabilmente stiamo per morire in un posto affollato, ci siamo circondati da persone che ci stanno filmando, che ci fanno foto. Ecco, proviamo a entrare in questo tipo di situazione. Io non voglio fare il buono, il moralista, io sono uno schifoso peggio degli altri, probabilmente farei la stessa cosa e farò la stessa cosa o avrò fatto la stessa cosa con la giustificazione che faccio il giornalista. Però Maura dice una cosa intelligente, una cosa saggia. Dice: è un riflesso condizionato. Ormai il nostro appagamento del glamour, dell'aspetto lussurioso, piacevole, di fare una foto, condividere la gloria, di vivere un momento epico, supera quell'istinto banale di socialità che è quello di soccorrere una persona. Sentiamo qualche ascoltatore. Manuela, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Io condivido appieno quello che dice la psicologa. Le dico, io ho 50 anni e vivo nel mondo della scuola da 20 anni. Credo che l'umanità sia figlia dei propri tempi. Questo accadeva vent'anni fa nelle autostrade, quando incidente stradale tutti si fermavano e si creavano altri incidenti stradali. Quindi noi, quello che io ho capito poi anche studiando, questi eventi ci sono, siamo, non ghettizzerei assolutamente i giovani, perché i giovani stanno cambiando proprio anche modalità, io ho visto cambiamenti nel giro di 5, 6, 7 anni, quindi ci continueranno a esserci. Arriveremo a un punto critico, che non, ancora non siamo arrivati a un punto critico, dove diventeremo ancora più autonomi, no? Nel senso che tutto questo è grottesco, cioè vedere una persona che muore in un supermercato, no, non ci sono parole, ma non siamo ancora arrivati al punto che questo scatenerà una reazione a livello proprio umano. Credo che occorre sensibilizzare i giovani, sia un fatto anche culturale, le persone, a tenere la testa impegnata. E perché tutto questo è molto superficiale, no? E tornare a un senso di condivisione, di appartenenza, cosa che il Covid ci ha dato, perché i 3 mesi di Covid ci hanno fatto capire, tutti chiusi, ricchi, poveri, dentro casa, ci hanno ridato quella sensibilità che si è persa. E poi tutti al mare a far vedere le chiappe chiare, però non mi pare che tutta questa grande didattica del Covid abbia lasciato tracce. In un ospedale a Verona sono morti bambini per un batterio. In un momento in cui pensavamo che l'Italia fosse sanificata, non mi pare questa didattica del Covid. Infatti non c'è rimasto niente del Covid, ecco. Questa è purtroppo, assolutamente. Sì, sì. Quindi voglio dire, la pia illusione, ne usciremo migliori, ne rimaniamo teste di cazzo come eravamo prima. Grazie. Dario, buongiorno. Dario. Pronto? No, io volevo dire, mi fa arrabbiare quando le dici tutti. Io ho il telefonino, lo lascio a casa, non lo porto mai in giro, perciò... No, non avrei mai fatto una foto. Lei però vive fuori del mondo, facendo così è come se si fosse, come se lasciasse a casa una potenzialità che le dà il mondo contemporaneo. Ma non mi serve, non mi serve. È come quelli che si mettono i guanti chiodati per non farsi seghe, la stessa cosa. È fuori del mondo. Non mi è mai servito. Ho girato il mondo e non ho fatto nessuna foto. E poi conosco altra gente che non farebbe mai la foto. Vabbè, però sono persone che sono rimaste indietro, stanno a un punto di ripristino precedente. Lei mi fa arrabbiare perché dice, perché tutti va bene, fa male arrabbiarsi, mangiare, dormire. Ma io mi ci metto per primo, guardi, io non mi considero innocente, dico in questo momento, nella fase che sta vivendo l'umanità, e la contemporaneità va vissuta in tutte le sue potenzialità, abbiamo bisogno di una nostra protesi emotiva che è il nostro telefono, abbiamo bisogno di registrare e condividere perché fa parte della nostra evoluzione, dobbiamo capire che però non possiamo lasciarci indietro dei pezzi, e i pezzi significano quando una persona, un essere umano è in difficoltà, la prima cosa da fare è pensare di soccorrerlo, aiutarlo, chiamare dei soccorsi e non fare la foto, è qualcosa che ci piace farlo e quindi lo facciamo, lasciare il telefono a casa non serve a niente, vuol dire chiudere la porta al mondo che sta cambiando. Andrea, buongiorno. Nicoletti, Andrea, buongiorno. Salve. L'ascolto. Mi sente? Senta, io volevo purtroppo dire la stessa cosa che ha detto l'ascoltatore che ci ha lasciato adesso, cioè veramente io sono abbastanza indignato, o quasi, pur avendo per lei una sconsiderata simpatia e stima, perché lei non può dire che tutti lo farebbero. Io sono compulsivo nell'uso del cellulare, ammetto che è questa mia debolezza. Però a me è successo 2 volte, ho 60 anni, la prima volta ne avevo 40 con mia figlia di 5 anni e poi in un ristorante, di salvare la vita a mia figlia prima e a un ragazzino piccolo di 6-7 anni nel ristorante a Vicenza, perché si stavano soffocando col boccone, una volta con un chicco d'uva e un'altra bravo, volta sì, però in questo momento, scusi, nessuno, lo apprezzo, lei è stato bravo, un eroe che ha fatto la manovra che pochi sanno fare salvando delle persone. Mi scusi, non c'entra nulla, ma tutti dovrebbero imparare come si fa, perché si salva. Sì, ma questa ha ragione, sì, però in questo momento, mi scusi, non è che dobbiamo dare le medaglie al primo della classe, stiamo parlando di un'altra cosa, perché volevo c'è questa reticenza? Nessuno si è sognato nel ristorante di riprendere, perché se l'avesse fatto avrei ucciso quasi con l'adrenalina di quel momento. Quindi sì, non è ho vero capito. Che tutti siamo schiavi di questo modo barbaro. Abbiate la bontà di considerare i termini quando sono termini usati in maniera pleonastica per dare il tempo. Dico tutti in senso lato, chiaro che tutti è assolutista e comprende tutti gli esseri umani del mondo. Tutti, quando dico un campione significativo di media umanità, che sono quelli che stanno un giorno normale al supermercato a fare la spesa, si è comportato così. Quindi viene da pensare, non è un comportamento legato a poche persone, ma un comportamento piuttosto diffuso. Poi, se vogliamo fare la lista dei buoni che si smarcano, dividiamo a metà la lavagna della nostra trasmissione, chi mi dice che è buono lo metto da una parte, dice che è cattivo da un'altra. Non è così che si comprende, si elabora un pensiero. Manuela ha parlato? No, Manuela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. L'ascolto. Io proverei a spostare l'attenzione dalla tecnologia per più che altro la cultura. Esattamente quello che è l'atteggiamento migliore. Fa parte della nostra cultura oggi l'essere tecnologici, è giusto. Immagino che il presupposto tacito per un simile comportamento sia di non riconoscere nell'altro una persona, ma un oggetto al pari di un piatto di pasta bello da fotografare. E quindi il problema è di tutti e dobbiamo parlare in prima persona plurale, perché magari, come diceva qualcuno, per quanto ci sentiamo assolti, siamo pur sempre coinvolti. Quindi concorda che dire tutti non significa gettare una croce addosso alla povera umanità, che questo non farebbe mai, ma dare uno spunto di riflessione su quello che diciamo a Romanca, che è un atteggiamento, un riflesso ormai condizionato su cui possiamo lavorare. È come avere paura del vuoto, non voler andare in aereo perché si pensa che precipiti. Uno ci lavora e poi viaggia più velocemente con l'aereo e magari si può affacciare alla finestra con serenità, così almeno la penso io. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. .800 24 0024, che vedo che pur dividendo il pubblico l'argomento in qualche maniera interessa, la gente comunque sia sta comprendendo, almeno quelli che mi ascoltano, la gente è un termine inesatto e limitativo, si stanno riflettendo sul fatto che in realtà ci dà gusto, ci piace, lo troviamo gratificante. Ricordo un'amica mia un paio di settimane fa, persona assolutamente retta, intelligente, attenta e tutto, non ha resistito a mandarmi la foto di due donne travolte da un'auto in un posto dove avremmo dovuto incontrarci. È logico, lo manda per farmi capire quello che è accaduto in quel momento. Poi però l'ho visto anche nel suo profilo Facebook e ho riflettuto sul fatto. Se questa persona, che è intelligente, con cui mi confronto, reputo sensibile al pari mio all'evolversi dell'umanità attraverso le tecnologie, l'ha fatto, c'è qualcosa di irresistibile. Anna, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sono anch'io una sessantenne, per cui mi ricordo bene epoche abbastanza lontane da noi. E devo dire che secondo me c'è stata proprio una evoluzione in questo desiderio di voyeurismo, non saprei altro come definirlo, perché c'è sempre stato questo. Il problema è la mancanza di empatia, secondo me, e cioè una volta quando qualcuno cadeva in terra e stava male, cioè, era la folla di gente che accorreva, per ognuno per dire la sua, per io non aiutare, credo molto eccetera. Però a questa età dell'oro della gente che si occupava, cioè abbiamo visto cose terribili fare alle generazioni che ci hanno preceduto. Sì, anch'io ho visto, certo. Però la storia ci racconta che ci sono state stragi intere, deportazioni in città come Roma, in cui la gente ha fatto finta di niente. Ora, che prima ci fosse un popolo fatto di persone, cioè a Roma hanno portato via coi camion d'accordo. Ebrei con persone che erano vicini di casa, hanno fatto finta di nulla, diciamoci la verità, non è che tutto questo altruismo molto più leggere di del questo, passato, cioè la persona che cade in terra e si fa male, c'era comunque un accogliere. Temo però che un problema sia dato, cioè questa mancanza di empatia che dilaga, no? Anche sulle piccole cose, dove non c'è una coercizione dei nazisti che ti dicono vai gli ebrei, tu non li devi difendere, ma di persone normali, cioè della nostra quotidianità, oggi in un paese per fortuna democratico. Questa mancanza di empatia temo che sia dovuta a una assuefazione a immagini di violenza continue che vediamo. Sì, anche questo è un po' il luogo comune. Io mi diverto un sacco a guardare i film di botte, di sparatorie, di kung fu e di supereroi che si fanno a pezzi, ma se vedo un gattino ferito mi fa tenerezza, ecco, che vuol dire, non è così, non confondiamo quello che è la spettacolarizzazione rispetto alla realtà. Giordano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo intervenire in quanto ho fatto il volontario in Croce Rossa per 15 anni. Questa perversione, tra virgolette, c'è sempre stata anche senza cellulari. Noi litigavamo spesso con curiosi che si fermavano intorno alle vittime di incidenti di vario tipo solo per guardare, per vedere che questa persona si era fatta male. Spesso purtroppo dovevamo tagliare gli abiti per intervenire, capire cosa avesse la persona, e questi non si spostavano, bisognava proprio mandarli via quasi con forza. Ecco, quindi diciamo è un fenomeno vecchio che assume una sua posizione di paradosso col fatto che oggi abbiamo una tecnologia di riproduzione. Esattamente. Secondo me sì, perché ripeto, quindi lei dal suo osservatorio volontario ho sempre dovuto litigare con i curiosi che si fermavano in tutti gli interventi, che fossero mortali o meno, sembrava quasi che godessero, ecco, a vedere questa cosa. Sentiamo Fabrizio, buongiorno. Io mi permetto di dire che bisogna dargli il nome a questa cosa è brutta. Cioè, intendo dire, ho capito che crea brivido, ma anche il pedofilo ha un brivido nel possedere un bambino. Abbiamo bisogno di bellezza, secondo me, la cura è proprio quella. Qui parliamo di pazzia, cioè fotografare un morto e farsi un selfie è brutto ed è pazzia. Cioè, la popolazione, penso sia il compito della politica, può un attimino rasserenarsi grazie alla bellezza. Io ho una zia novantenne che con la seconda elementare ha avuto la fortuna di seguire la lirica da bambina al Casinò di Sanremo e adesso ne ha goduto tutta la vita. Di questo, noi dobbiamo ribellarci nel senso buono del termine, perché queste qua sono patologie. Ma il paradosso dell'umanità è che mentre sarebbe facile e bello per tutti perseguire l'ideale di bellezza, in realtà c'è qualcosa in noi di autolesionistico, o non sa bene come definirlo, e non voglio essere giudice nessuno, che ci porta in realtà a cercare l'aspetto triste, scurrile, violento, volgare della realtà. Olivero Toscani, buongiorno. Buongiorno. Ciao Olivero, ti pongo una domanda molto precisa. Due episodi, l'episodio di Crema conosciuto della donna che si dà fuoco e tutti fanno i selfie. Ieri in un mega supermercato di Roma cade un signore di 70 anni, poi muore pure. Sono stati costretti a sgomberare il supermercato perché tutti, signore, signori, anziani, ragazzi, massaie, padri di famiglia, sono messi a fare le foto, a fotografare questa persona e quindi non potevano arrivare i soccorsi. Secondo te, che hai fotografato di tutto, hai dato tutti gli scandali possibili, hai dimostrato qualunque cosa ha una sua drammatica bellezza nell'essere rappresentato, esiste un correttivo, una cura, perché non tutti noi diventiamo dei rappresentanti di circostanze tragiche piuttosto che intervenire quando si può intervenire praticamente? Sai, quando sei presente a una situazione, no? Sei presente con i tuoi occhi, guardi, e adesso c'è anche questa macchina qui col telefonino, guardi e per di più registri. Ma sai, questo signore prima che parlava di bellezza, ma bellezza è una... Non è perché la lirica è bella, esistono anche dei pezzi di teatro o della letteratura che non so, che non parla del bello. Cioè, io dico sempre, gli stupidi vedono il bello solamente nelle cose ovviamente belle, no? Invece è molto più complessa la cosa. In questo momento c'è questa... Niente, non è più vero ciò che è vero, ma è vero ciò che mediamo attraverso la immagine. Ma su quello forse mi puoi aiutare te a riflettere. La lettura, la mediazione artistica, il fotografo che fotografa dei momenti tragici della realtà lo fa con la consapevolezza, con il metodo, con il sistema di dare una testimonianza sulla quale poi si apre un racconto, e questo è lecito, come è lecito lo faccia il giornalista. La memoria storica dell'umanità esiste da quando c'è la fotografia. Prima non c'era veramente, c'era letteratura, forse palle anche, forse bugie. Ma quando si esiste la fotografia è la realtà. E la realtà è così. La realtà è fatta di queste cose qui, non è tutta bella la realtà, capisci? Purtroppo siamo condizionati. Ok, ma il problema è che diventa un atteggiamento di massa. Quando 300 persone vogliono fare un selfie a una persona morente in un supermercato, c'è un problema di ordine sociale. Sì, ma non è che fanno il morente, ma adesso vanno ai concerti e non ascoltano più il concerto, vanno lì col telefonino e registrano il concerto. Passa qualcuno per strada, guarda tutta qualsiasi manifestazione, sono tutti lì col telefonino per aria a registrare ciò che stanno guardando. Non si guarda più, ma si registra. Questa è la verità. Non si guarda dobbiamo renderci conto che questa fase dell'evoluzione dell'umanità siamo diventate le persone che si appagano, perché alla fine c'è un gesto che provoca piacere, se no perché lo fanno? Si appagano a riprodurre. No, non è un appagamento. Si sentono come testimoni, responsabili, non lo so. È abbastanza imbecille questa reazione. Ma è così, guarda, in qualsiasi manifestazione sono tutti lì col telefonino per aria a registrare ciò che succede, poi magari vanno a casa e non lo guardano neanche, o se no se lo spediscono dicendo guarda dov'ero, guarda cosa ho visto, guarda cosa è successo, guarda cosa è così, fatto tutto. Dal sushi al piatto a tutto, i tramonti, tutti. Però si crea un problema per persone come te, alla fine. Se la storia è fatta attraverso immagini e le immagini devono avere una forte mediazione, che c'è dietro un lavoro e una cultura, saremo sovraccarichi di immagini banali fatte da chiunque che si sovrappongono e non si perderà il senso? No. Assolutamente no. Tutti, senti Nicoletti, tutti sanno scrivere, ma gli scrittori sono pochi. Non è perché sai scrivere sei uno scrittore. Tutti possiamo cantare, ma chi canta bene sono pochi. Quindi tutti possiamo fotografare, ma di chi traccerà delle immagini memorabili, cioè degne di essere trasportate alla storia, non sanno certo i telefonini degli avventori di un supermercato che fotografano un morente per poterlo condividere con gli altri. Grazie Olivero Toscani, grazie a tutti e alla prossima.